Anatemi e rifiuti urbani. 25 o'clock su Radio Onda Rossa. Allora, raga, questa è una storia interessante che parla di... Vabbè, non la faccio troppo lunga perché c'è i miei tempi stretti, però è dedicata a Dario e ai ragazzi della Radio Onda Rossa dei 25 o'clock che ci hanno permesso di poter parlare per un'ora intera esclusivamente di vomità quando si è troppo ubriachi. Quindi direi che insomma questo pezzo è tutto quanto loro. Argomenti di un certo peso che ci piace sempre affrontare. Finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo. Chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo. Bene. Benvenuti, bentornati, bene o male. Eh sì, insomma, torniamo dopo 15 giorni di assenza con 25 o'clock. Vediamo cosa succede, cosa saremo in grado di produrre. Vi ricordo che siete all'ascolto di 25 o'clock sulle frequenze di Onda Rossa. Che Onda Rossa sta continuando, tra l'altro con un buon successo delle ultime ore, a produrre la sua campagna di autofinanziamento, grazie a tutti e tutte voi che contribuite alla campagna 30 per 1000, 30 di voi per 1000 euro ciascuno. No, non chiediamo questo. Chiediamo 1000 di voi con 30 euro l'anno di sottoscrizione per la radio. Quindi con poco più di un caffè al mese, con un paio di caffè al mese potete fare in maniera tale che Radio Onda Rossa possa campare, possa vivere per un anno intero. Va bene, ci siamo assentati. Questa sera la puntata non sarà in diretta, ma in differita. Vi ricordate le partite di una volta, quando non si voleva sapere il risultato e allora si trasmetteva la partita con mezz'ora di ritardo perché magari ce n'era un'altra in contemporanea, insomma queste robe qua, questi artifici che utilizzeremo anche noi, date le circostanze appunto in cui ci troviamo ormai da parecchie settimane. E trasmettiamo da remoto in questo caso. Ci abbiamo messo 15 giorni anche perché era estremamente difficile produrre. È risultato difficile produrre quanto abbiamo prodotto, ma non perché sia chissà quale risultato, ma perché semplicemente non siamo buoni. Vabbè. Allora, dicevamo, www.ondarossa.info, il sito della radio, troverete lì tutte le modalità della campagneria di abbonamento 30 per 1000 di cui abbiamo testé indicato le caratteristiche. 0649 1750, il numero di telefono per quando c'è qualcuno, qualcuno in radio. Onda Rossa, @ondarossa.info per le vostre comunicazioni, oltre ovviamente ai social che conoscete, cui la radio dà seguito. 25 o'clock, @ondarossa.info, che invece è la casella di posta elettronica dello spazio che state ascoltando. Allora, quindi un trip. Un trip virus, però questa volta demenziale da parte nostra, e con un finale, un omaggio ovviamente al nostro Salvo. Per cui è anche difficile spendere parole, perché si rischia veramente la retorica, cosa che non vorremmo proprio suscitare, o facili edificazioni così di... Salvo era uno di noi, ecco, ecco, detto tutto. E ci dispiace moltissimo, non solo ci dispiace, ma soffriamo moltissimo per la sua mancanza, e quindi questo demenziale trip virus da parte nostra è dedicato in fondo, in coda, a lui, a una registrazione che producemmo un paio d'anni fa, proprio durante 25 o'clock. Detto questo, appunto, vi lasciamo a questa oretta e mezza, forse un po' di meno, di elaborazione, di manipolazione, miscelazione di robe. Ci sentiamo alla fine per le conclusioni. Buon ascolto a tutte e a tutte, bella così, dai. Posto 514. Il telefonista è morto. Il posto è abbandonato. Ripeto. Il telefonista è morto. Il posto è abbandonato. Allora, tutto a posto? Lui chi è? Si chiama Peter, è un amico. Andiamo. Qualcuno di voi lascia dei parenti laggiù? Una

È sicuro. Iniettato per abbattere la popolazione. La febbre tiene raffreddore e poi vai. Strello al serpente. Da pipistrello al serpente. Che ci fa paura? La febbre tiene raffreddore poi vai. La febbre tiene raffreddore poi vai. Che ci fa paura? Siamo immuni. Siamo immuni. Che ci fa paura? La febbre tiene raffreddore poi vai. Bravo. Se mi viene, muore e me le tira avanti, meno uno. Meno uno. Ma guarda, ti guarda il virus corona, non me ne frega un cazzo, ti va bene. Se mi viene, mi viene male, me ne dirà panzana che stanchi. Però uno dovevi strella al serpente. Dovevi strella al serpente. Dovevi strella al serpente. Quello che ci dice la TV. We'll be right back. David, non lo farò. Non intendo andare dai miei. Non sai che cosa Neanche succede. Neanche tu lo sai. Senti, qualunque cosa sia, io non andrò via così. Tu te ne andrai? Sono lo sceriffo. E io il loro medico. Sì, bene. Se avranno bisogno di penicillina, ti chiamerò. David. Sì. Che cos'è? Là fuori c'è qualcuno. Sanguinava il naso, anche a Rory. Beh, se c'è emorragia cerebrale deve essere una specie di virus. Qua, signora, lei fermo, aspetta. Sono lo sceriffo, lei è il dottore, conosciamo tutti. Normale. Che cazzo succede? Volete dirci che succede? Potremmo esservi d'aiuto. Temperatura anomala e decontaminazione. Thank you. voglio farci. L'hanno presa. Judy? Anche lei. Hanno preso George, Francine, Whit, Simon e tantissimi altri. James! Mamma! James! Vado a prenderla. La città è completamente isolata. Hanno messo blocchi su ogni strada. Timmy ce l'ha provato a passare. Hanno ucciso lui e tutta la sua famiglia. David, potrebbe essere la tua unica occasione. Non sprecarla tentando un'impresa inutile. Judy è un'impresa inutile. Hai capito cosa intendo? Ok, tu non chiedermi perché non me ne vado senza mia moglie e io non ti chiederò perché tu lo fai. C'è una violazione della sicurezza! Tutti fuori, presto! Muovetevi, muovetevi! Avanti, tutti fuori, tutti fuori! Fuori, avanti, avanti! Stanno attraversando il ponte, lo controllano loro! L'esercito si è ritirato! Pronti al ricordo, tutti a bordo, andiamo! L'emergenza. Allarmismi e panico. L'emergenza. Allarmismi e panico. Gli esperti. Allarmismi e panico. Gli esperti. Una task force. Allarmismi e panico. Gli esperti. Una task force. Promiscuità di uomini e animali. Gli esperti. Allarmismi e panico. Psicologo Effettivologo. Allarmismi e panico. Passano tante informazioni attraverso il televisore, i giornali. Televisore, i giornali. Gli esperti. Allarmismi e panico. Passano tante informazioni. Televisore, i giornali. Gli esperti. Delle informazioni attendibili. Televisore, i giornali. Gli esperti. Delle informazioni attendibili. Allarmismi e panico. Tutte le rassicurazioni. Gli esperti. Tutte le rassicurazioni. Allarmismi e panico. Televisore, i giornali. Tutte le rassicurazioni. Evitare allarmismi, psicosi. Evitare allarmismi, psicosi. Tosse, rinichi e podare polmoniti. Evitare allarmismi, psicosi. Tutte le rassicurazioni. Televisore, giornali. Tosse, rinichi e podare polmoniti. Gli esperti. Tutte le rassicurazioni. Televisore, giornali. Evitare allarmismi, psicosi. Evitare i luoghi affollati. Evitare allarmismi, psicosi. Evitare i luoghi affollati. Gli esperti. Delle misure per contenere l'infezione. Evitare i luoghi affollati. Evitare allarmismi, psicosi. Televisore, i giornali. Delle informazioni attendibili. Tosse, rinichi e podare polmoniti. L'infezione. Un'unità di crisi. Evitare i luoghi affollati. Un'unità di crisi. E metterti delle mascherine. L'infezione. Allarmismi e panico. L'infezione. Mascherino. Mascherine. Mascherine. Mascherine. It's tough out there. It's a goddamn jungle. Mascherine. L'infezione. l'infezione. Allarmismi e panico. Ricordati, non è un interrogatorio né un processo. La tua versione della verità è ciò che conta. La verità è singolare. Le sue versioni sono non verità. Sullivan Blue. It's a recipe for blue, like it's 1862. Maybe I'm just a castaway, or a poor boy led astray. C'è grande disaccordo riguardo a cosa fare con te. I corpocrati vogliono eutanizzarti come deviante, il fabbricante pretende un periodo di studio, gli psicogenomisti si battono per un'immediata cerebro vivisezione. Tuttavia, Il problema che tu crei è di natura politica. Significa che sei un mio problema. Io trovo intrigante immaginare che sotto queste fattezze perfettamente costruite ci siano pensieri che terrorizzano tutta l'unanimità. Io non temo tali pensieri perché non temo la verità. C'è un ordine naturale in questo mondo artificio. E la verità è che quest'ordine deve essere protetto. Puoi mantenere il potere sulle persone finché dai loro qualcosa. Deruba un uomo di ogni cosa e quell'uomo non sarà più in tuo potere. Senti, il problema, cioè, oggi non riguarda solo noi, perché le analisi sul carcere sono state fatte tante, non parliamo di chi poi di carcere va a cercare i voti della gente, ma chi gli analisti, anche giuristi, criminologi, insomma, hanno analizzato a fondo il carcere, perché ormai c'ha 400-500 anni, quindi è bello vecchiotto, cioè, ha fatto la sua storia. Ora, il modo nostro inteso, diciamo, della società moderna, occidentale, cioè di ragionare, è quello che di vedere, mettiamo per esempio, facciamo un ponte, Vediamo se regge 2 anni, vuol dire che non va bene così, se regge 50 anni va meglio e così via. No, cioè ragioniamo sulla funzionalità delle cose che mettiamo in piedi. Se facciamo un'automobile che dopo 6 mesi si sfascia, probabilmente va rivisto qualcosa perché non va bene. Ecco, il carcere allora oggi, diciamolo per punti, quelli che hanno analizzato il carcere e la sua funzione dei 400 o 500 anni passati, allora, da una parte uno è molto costoso, costa un sacco di soldi alle società che insomma stanno sempre a parlare di deficit, debito eccetera, quindi è molto costoso. Due, aumenta, moltiplica la criminalità, perché questo non lo diciamo noi, questi sono libri, studi fatti da, diciamo, da studiosi di questo settore, che dicono che soprattutto i giovani che vanno in carcere, anche se hanno fatto una cazzatella così, quando lì dentro trovano un ambiente che poi si legano a batterie, a bande, a gruppi eccetera, quindi il carcere favorisce il crimine, la criminalità, l'estensione della criminalità. Terzo punto, il carcere non aiuta a rientrare nella società, perché il carcere è separato dalla società, cioè il carcere c'ha le mura, che però le mura, se vediamo bene, uno pensa alle mura, alle sbarre, quelle servono a non far scappare il detenuto, sembra così, in realtà le mura servono a non far entrare la società dentro al carcere. Di questa cosa, l'altro, non ce ne siamo accorti noi solo per primi, se ne sono accorti per esempio durante i lavori dell'Assemblea Costituente che scrisse la Repubblica, la Costituzione Italiana, delle persone di sinistra, ma allora c'era una sinistra perlomeno molto interessante, e disse noi cerchiamo di capire qual è il modo di vista del fascismo sul carcere. E scoprirono questa cosa qui, perché c'è scritta: il carcere deve essere separato dalla società, perché chi ha violato la legge deve essere espulso dalla società, ghettizzato, emarginato, portato via, e quindi deve essere il carcere e la società non devono avere nessun rapporto. Loro dissero: noi, siccome non siamo fascisti, ovviamente hanno fatto la resistenza, vogliamo dare un'altra impostazione al carcere. Il carcere deve essere un pezzo di società, è un pezzo di società, perché quella gente entra e esce, in realtà sono gente come noi che vanno dentro e fuori, e quindi dobbiamo rimetterlo dentro la società. Fecero questo ragionamento, poi non è che hanno scritto molto nella stesura finale della Costituzione, perché per punti sono principi generali, però se diciamo i politici che hanno fatto i governi, le leggi, i parlamenti successivi al 46, e sono stati tanti, avessero interpretato, e non è che non l'hanno capito per incapacità, perché molti studiosi hanno scritto qual era l'interpretazione, perché non l'hanno voluto capire. Se avessero invece voluto dar corso a quei principi, avrebbero fatto un carcere diverso, cioè non, tra l'altro la parola carcere non c'è nella Costituzione italiana, andatela a cercare se non ci credete, non c'è la parola carcere, così come non c'è la parola preventivo, nel senso che non accettano le misure che oggi dilagano, no? Anche dai governi precedenti, non solo da queste, che ti arrestano per quello che sei, non per quello che fai. Ecco, questo tutto è queste, diciamo, le valutazioni che danno, non noi, che danno gli studiosi seri, quelli seri, non quelli che fanno gli articoli del giornale per vendere qualche copia a chi c'ha i dolori di pancia. Ecco, allora noi che diciamo? A questo punto, visto che i tentativi di riformare, cioè di rendere il carcere bellino, in carcere si dice, chi sta dentro, i detenuti dicono il carcere con le tendine rosa, che vuol dire il carcere un po' abbellito, il carcere umanizzato, il carcere no, senza botte, tutte queste cose qua. In realtà però i tentativi in questi 400 anni per riformare il carcere, renderlo meno brutto, sono stati fatti tanti, tutti e tutti quanti falliti, tutti falliti, e anche questo è un dato scientifico, al punto che i pestaggi che si facevano 400 anni fa, se ne è fatto uno ieri, l'ho letto sul giornale, a Viareggio in Tare, un detenuto è stato picchiato, c'è pure un'inchiesta in corso, quindi si muore in carcere, anzi i suicidi stanno aumentando. Anche la popolazione carceraria comunque non è mai diminuita, tanto è vero che si deve ricorrere di tanto in tanto a qualche forma emergenziale di indulto, di indultino, per poter, i decreti svuota carcere, no? per poter diminuire la popolazione carceraria, che altrimenti si continua a costruire carceri, ma questi sembra che non bastano mai, insomma, poi in realtà. Ah, le carceri prevalentemente si costruiscono perché portano un sacco di profitti. Siccome il carcere non è come una casa d'abitazione che ha le mura fine, un po' di cemento buttato lì, le carceri hanno mura larghissime, 3-4 metri, con tanto ferro dentro, i segnali d'allarme, sistemi sofisticati, quindi costa un sacco di soldi il carcere. E le ditte che costruiscono il carcere, che sembrano andare a cercare, fanno tutti capo a una, a un filone di palazzinari che fa riferimento a chi è stato presidente del Consiglio qualche anno fa in questo paese, sapete tutti di chi parlo, insomma, no? Infatti il piano carceri per costruire nuove carceri lo farò appunto il governo Berlusconi. Quindi porta profitto, per quello non gli frega niente di far sapere. Cioè, attualmente i detenuti sono arrivati a 60.000 di nuovo, che era un livello di allarme qualche anno fa. E poi appunto, come dicevi tu, sono stati fatti i decreti, quelli per svuotare un pochetto, però poi è risalito. Allora, la domanda che si fanno altri, sempre studiosi, dicono: come mai, soprattutto quelli norvegesi, svedesi, che sono un po' più attenti, dicono come mai in Italia calano pesantemente, per fortuna, i reati gravi, no? Gli omicidi, le rapine a mano armata, i sequestri sono spariti, cioè, calma, e che aumentano le persone incarcerate? Domanda. Nessuna risposta a questa domanda. Noi una risposta ce l'abbiamo, ma noi non siamo studiosi che studiamo. La domanda è molto semplice, perché se, ma questo ce l'avete tutti voi, tutte voi ce l'avete se state un po' attenti, casomai uno conviene che beve qualche caffè di più, che non è che fa male sentire stupidaggini della televisione, no? Perché la campagna elettorale, l'ultima, ma anche la penultima, anche la terzultima, si giocano tutte su questo fatto, sulla paura. Il governo della paura ormai è dilagante. La paura, ci stanno i rom che rubano, ci stanno gli immigrati che rubano, ci stanno quelli che rubano. Le categorie noi cambiano, per però. Difendere. Le categorie cambiano di volta in volta. Sì, cambiano, però certo, negli anni 70 magari era il movimento, negli anni 80 erano i tossici, per dire, negli anni 90 e via dicendo, insomma, e ci troviamo oggi con l'immigrazione essenzialmente. Poi tra l'altro questi dati che riporti te, grosso modo le due tipologie di reato che riempiono le carceri e che portano a tanta disperazione, a tanta morte in carcere, sono essenzialmente due: legati i reati commessi legati all'immigrazione e cioè a una condizione già di per sé di sfavorevole, insomma, un immigrato che arriva è una persona che comunque si trova in un territorio, in una cultura, in un mondo che è differente dal suo, innanzitutto. E altri reati legati alle sostanze stupefacenti e alle leggi riguardanti la punibilità dell'uso delle sostanze stesse, del piccolo spaccio, insomma, che è legato poi strettamente all'uso. Quindi, insomma, grosso modo poi ci vorrebbe poco, no? Non dico per abbattere le carceri, per svuotarle, basterebbe depenalizzare questi comportamenti che non sono affatto reati, cioè chi è immigrato è una condizione. Di questa cosa sono convinti tutti, che il carcere non serve a niente, lo dicevo prima, ormai fanno gli studi, costa un sacco di soldi, non serve a niente, che è un posto dove la gente si rovina e basta, però si prendono i voti dicendo noi faremo più carceri, è quella sorta di finzione, qui non è che ci stanno le fake news, questa è stata un'altra stupidaggine di stagione, non è che ci stanno le fake news, è tutta una grande menzogna, è solo e tutta una grande menzogna, perché quando si dice alla gente, si dice tu stai male, la gente sta male perché c'ha paura di perdere il lavoro, c'ha paura di perdere la casa se ha fatto il mutuo e non c'ha più soldi per pagarlo, c'ha mille paure in parte reali, in parte indotte proprio dai media, no? Ecco, a queste paure, se lasciassero la gente ragionare da sola, scoprirebbero la causa. Qual è la causa? La politica sbagliata, l'economia, i troppi ricchi e i troppi poveri. Ci stanno scritto tutti i giornali che negli ultimi, dal 2007 ad oggi, quindi in 12 anni, la differenza tra i più ricchi e i più poveri è aumentata in Italia di 5 volte, cioè si è quintuplicata la forbice tra i che vuol dire? Questo non è che avviene per volontà di Dio, avviene perché le politiche sono fatte per togliere i soldi ai poveri, poi lo si dice, no? E darle ai ricchi, perché loro poi investono. Ecco, tutte queste cose, appunto, la gente sta male perché ha veramente dei problemi, la disoccupazione giovanile è enorme e qui i ragazzi stanno male. Però si dà un'altra, si dice il responsabile di questo tuo malessere non è la politica sbagliata, l'imprenditore, ladrone e palazzinaro, è il migrante che ti ruba la mela, è il rom che ti ruba, che so, 5 euro. Questo, allora, e purtroppo la gente crede a queste cose e allora vanno appresso. E l'ultimo, il pacchetto sicurezza approvato ieri, ormai è già legge, ecco, ha portato questa cosa, è stato applaudito da questo paese, perché questo poi è fatto, probabilmente l'essere umano. Questa è una cosa che direbbe, in questa fase, ma forse anche in altre, è abbastanza ammaestrabile, più dei cani e degli altri animali, perché sono riusciti, o forse perché i media hanno una potenza di convincimento talmente forte, sono riusciti a convincere che appunto il nemico è quello, come dicevi tu, cambia di volta in volta. Una volta erano gli albanesi, vi ricordate, vi ricordi qualche tempo fa, poi sono diventati i magrebini, poi sono diventati quelli dell'est, e poi i romeni, cambiano di volta in volta, però insomma c'è sempre un nemico, che è quello, non è, è quello sbagliato, non è che ci levano il lavoro, casomai lo danno il lavoro, perché questi vengono a lavorare a due soldi a nero, e altrimenti non troveresti. Quindi il problema, la conclusione che secondo me bisognerebbe cominciare a pensare è questa: il carcere fa solo del male alla società e alle persone che ci butta dentro, ma anche a quelli che rimangono fuori con questo terrore non indirizzato bene, e tutti i tentativi di riformarlo sono tutti falliti. L'ultima è quella Orlando, no? Ha fatto sto bel discorso, poi nel governo suo, quello Gentiloni, nel governo successivo l'hanno approvata, l'hanno buttato nel cestino. Un lavoro di 2 anni, ha coinvolto centinaia di professionisti, belle persone, non è che cambiava molto, ma qualche miglioramento lo portava. Ecco, le riforme non sono possibili, qualcuno diceva, no, i classici, il carcere non è riformabile, questo è stato scientificamente dimostrato. Allora, se non è dimostrabile e è questa porcheria dell'umanità, potremmo benissimo levarcela attorno, cioè riprendere il discorso di abolire il carcere, riprendere un percorso abolizionista, oggi è l'unica cosa da fare, che non significa, ah, allora se uno ruba gli facciamo applauso, no, ci sta tutto un altro sistema sanzionatorio che l'umanità nel passato ha sempre messo in piedi, che è vastissimo, che però non c'entra niente con togliere la libertà, ci stanno altri modi di sanzionare, di fare un discorso, un confronto con chi viola la legge. Il carcere invece serve è la peccetta sbagliata messa su una ferita che appunto è la paura. Oggi diciamo dovremmo veramente avere il coraggio di rilanciare un percorso abolizionista, un movimento abolizionista. Oggi sì, è proprio ne ricordo, anche perché se no, se lasciamo andare questi qua. L'altro anno Minniti ha fatto quel decreto sicurezza, quest'anno l'ha fatto Salvini peggiorando, prossimo anno lo farà un altro ancora peggiorando, alla fine non possiamo uscire più di casa. Saremo tutti potenzialmente carcerabili, insomma. Senza fare i colpi, una volta facevano i colpi, adesso non c'è più bisogno, adesso piano piano ti convincono democraticamente e tu non devi fare più niente, devi rimanere fermo a casa, perché ci stanno mille paure, oddio, ci stanno. Quindi questo sta succedendo, non è che. Quindi bisogna prendere il toro per le corna, si dice una volta, no? E dire no, noi il carcere lo dobbiamo buttare via, ci vorrà sarà lungo il percorso, però io credo che se diamo questo input alle persone che invece hanno soltanto una voce, quella che dice ci vuole il carcere perché sennò tutti questi banditi ti levano le nostre proprietà, poi quale fosse le nostre proprietà, uno c'ha la macchina scassata, che ci abbiamo proprietà? 20 euro in tasca, queste sono le nostre. Di solito poi la macchina o la casa, ma anche la tua, perché è della banca, perché ci stai pagando le rate, quindi insomma. Certo. No, sì, assolutamente giusto. Volevo aggiungere una suggestione, un fatto storico. Proprio qualche mese fa abbiamo festeggiato i 40 anni della legge Basaglia. Appunto, qualche mese fa era il 40, 40 anni che ci siamo liberati dei manicomi, che in qualche maniera, e tra l'altro nel nostro paese la legge Basaglia fu all'epoca una legge pilota poi per tanti altri esperimenti in tutto il mondo. Quindi non so, potrebbe essere magari, se l'abolizione del carcere, che probabilmente né io né te riusciremo a vedere in forma compiuta, tant'è vero che i manicomi sono chiusi, ma non per questo è abolita un certo tipo di mentalità psichiatrica, manicomiale, eccetera, sono processi lunghissimi. Quali sono i passaggi, cioè cosa dobbiamo fare secondo te, quali sono le cose più giuste da fare, cioè appunto le nostre visite sotto i carceri, possiamo moltiplicare le presentazioni che scarceranno, mobilitare le coscienze, eccetera, eccetera, ma quali sono i passaggi secondo te importanti da fare, quali le pratiche da invece da evitare, qual è la cosa che invece non dobbiamo mai fare, l'errore, il tranello in cui siamo caduti più spesso? Allora, quello che possiamo fare è quello che appunto dicevi tu, è riprendere il rapporto con chi sta dentro, a fare i presidi sotto le carceri, e soprattutto anche la lettera, la corrispondenza con chi sta dentro, è una cosa importantissima. Se la carcerata, ex carcerata, lo posso dire, quando si sta in carcere la cosa che anneli di più è che ti arrivi una lettera, intanto perché ti fa sentire non più solo, perché qualcuno ti ha scritto, leggi e ti metti subito a rispondere, e perché sai che qualcuno leggerà intanto quello che ho scritto, quindi c'è un pezzo di società fuori che aspetta tue notizie, che è molto importante. Non ci vuole niente a scrivere, per noi che siamo fuori, ormai che siamo fuori, già ci vuole mezz'ora a settimana, e considerate che in radio abbiamo un indirizzare enorme, perché sapete che ci scrivono un sacco di detenuti, sia per chiedere l'agenda, ma da tutta Italia ormai, sia per raccontarci le cose come vanno, quindi abbiamo un indirizzare enorme, e basta prendere uno di quegli indirizzi e scrivere, cominciare a scrivere, e poi così intanto si dà anche coraggio a chi sta dentro, non si sentono più soli, perché anche quello bisogna recuperare, il coraggio di chi sta dentro, perché attualmente sono una popolazione numericamente importante, 60.000, che sono passivi, cioè non è che sono passivi, stanno entrando a domini, no, perché la polizia penitenziaria ha contato 800 aggressioni alle guardie, poi non saranno aggressioni, comunque risposte, cioè si incazzano con la guardia, nervosismo, c'è, insomma, è ovvio che ci sia, è giusto che ci sia, è normale che ci sia un certo livello di tensione, nervosismo, di conflitto, no, ma però non prende l'indirizzo giusto, questo è il problema. Perché non lo prende? Cioè di dire d'accordo, la guardia li può pure mandare a quel paese, la può mandare, però il problema è organizzarsi e cominciare delle lotte serie, collettive, questo lo possono, però lo possono avere questa sensazione se noi se sentono la vicinanza di chi sta fuori, perché altrimenti si sente come un topo in gabbia e si incazza con chi sta al di là di cancello. Invece apposta per riprendere la discussione con chi sta dentro è fondamentale, sia andando sotto le carceri e sia con la corrispondenza. E poi quello che possiamo fare è anche la cosa che dicevi tu, di che cosa ha fatto male, e lo so, tante cose continuano a far male, e oggi molto diffusa la lamentazione fino a se stessa, cioè il lamentarsi, no? Il dire carcere, lì c'è la squadretta che per esempio la cosa che credo che dovremmo discuterla pagare tranquillamente, tutti abbiamo visto il film, secondo me ben fatto, sulla morte di Stefano Pino. Sì. Ora io l'ho visto in un centro sociale, c'erano centinaia di persone, ma l'hanno dato, si è visto anche gratuitamente, perché è stata una corretta, no, diffusione di questo documento importante. Chi ha avuto a che fare con la repressione e col carcere sa che quello che ha subito Stefano, il nostro Stefano, e che ce l'ha ammazzato, non è niente di diverso di quello che subiscono tutti quelli che hanno a che fare con la repressione. Non è che ha avuto un trattamento particolare, lui probabilmente il pestaggio, tutti quelli che sono passati per il carcere o per l'arresto in situazioni un po' complesse hanno avuto il pestaggio. Ovviamente il pestaggio quasi sempre non si muore, per fortuna, perché siamo ragazzi così, A volte basta un colpo sbagliato o l'accanimento particolare, ma no, lì c'è tutti i passaggi, allora il pestaggio, il medico che non ti si fida per niente, il giudice che manco ti guarda in faccia, esattamente così per tutti è avvenuto, esattamente così per tutti avviene. Io di pestaggi sono subito 4, e più di 4-5, c'avevo i spacchi in testa, ma da altri ancora peggio, cioè non è che è una cosa per cui parlare ad esempio di abuso. Secondo me, a me suona male questa parola, è l'esatto comportamento delle forze dell'ordine in questo paese, e non solo in questo, perché in Francia viene uguale, in Inghilterra pure peggio, quindi la repressione è questa, non è possibile addolcire dalla repressione, quindi tutte quelle misure di mettiamo qua, chiediamo che chiediamo? La repressione va combattuta, questo sì, cioè devi far sentire a loro capiscono loro la repressione. Le forze della repressione, così come le guardie carcerarie, capiscono solo una voce. Se capiscono che la persona che loro hanno arrestato, ci hanno al di là delle sbarre, ci hanno in consegna, è appoggiata da altri, a quel punto lo rispettano. C'è solo questa legge, quindi devi far sentire che stai vicino alla persona che è arrestato, che è stata messa in carcere o che viene presa in consegna dalla repressione. Solo questa legge capiscono loro. Se capiscono che c'è gente intorno a te, non ti toccano, ti trattano bene con i guanti bianchi, perché sanno che altrimenti non succede qualcosa. Questa è la legge di questo mondo, non lo scopro io, lo sappiamo tutti, è basato sui rapporti di forza, è una piccola giungla questo mondo, è normale, basta vedersi intorno, escono gli altri, ci sono 34 guerre in giro, non è che c'è una situazione, 34 guerre, non è uno scherzo, con morti, quindi non è un paradiso terrestre questo mondo, anche se in questa landa di terra, in questi periodi, possiamo pure andare al mare. Viviamo una pace relativa, insomma, ecco. Dai. È una pace relativa, ma altre parti del mondo stanno in un inferno bestiale. Anche molte parti, l'Atlante delle guerre, 34 guerre in corso, non mi pare che sia anche qui scherzo. Basta spostarsi da un quartiere all'altro e la situazione cambia, insomma, abbastanza. Esatto. Quindi, per cui voglio dire, il problema è questo, il meccanismo è questo, dobbiamo non accettare la separazione di chi sta da fuori, non dobbiamo accettare che la repressione prenda in consegna e porti via le persone, dobbiamo stare appresso, questa è l'unica arma che abbiamo oggi. E poi chiaramente poi prospettiva dipende, giustamente dicevi tu, oggi non è facile mettere su un movimento di nessun tipo, men che meno uno così, però appunto si deve cominciare a mettere lì dei piccoli semini che poi cresceranno il tempo che ci vorrà, va bene, però per esempio si può prendere l'esempio che dai tu dei manicomi, no? Quando mi ricordo, perché io ero giovane allora, ho fatto le manifestazioni a Reggio Emilia, quando si parlava, c'era la proposta di abolire più dei manicomi, i giornali di destra, che hanno quasi tutti come sempre, ma ferocemente urla il tempo, mi ricordo, mi dicevano ci avremo i pazzi per le strade che ci aggrediscono, aggrediscono i nostri bambini. È successo tutto questo? No. Quindi vedete, le paure indotte dai media sono delle grandi stupidaggini, è tutta una stupidaggine. D'altronde la società dello spettacolo di Debord, insomma, ogni tanto bisogna rileggerla, perché rappresenta esattamente come sta andando questo mondo. Quindi hanno chiuso, se i manicomi sono stati chiusi, non è che i pazzi sono in giro a strangolare ragazzi. Anzi, io direi pure un'altra cosa, sul piano culturale il termine, cioè c'è stata proprio una variazione semantica di significato, no, della parola matto, per cui il matto, certo, prima, certo. Oggi matto è quasi, cioè quando uno dà del matto a qualcun altro, della matta a qualcun altro, quasi dà un'accezione positiva, di intraprendenza, di vivacità, di estroso, estroverso, certo. No? Va bene Salvatore, dai, ci vuoi ricordare, anche perché così abbiamo dato un incipit di quello che potrebbe essere la discussione, certo, delle varie presentazioni, sì, ne abbiamo una di questi, certo, e di questo parliamo quando giovedì siamo stati a Bologna, ecco, Bois, che abbiamo parlato di questo, a un centro sociale così, per sostenere anche la radio, perché è giusto sostenere la radio, perfetto, quindi facciamo un sacco di spese, perfetto, esattamente, ok. Va bene, okay. Dai, allora ti ringraziamo per la chiacchierata. Grazie, che è sempre comunque un approfondimento necessario e interessante. E dai, ci sentiamo su queste frequenze durante la conta, un mercoledì sì e un mercoledì no. Va bene? Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, grazie a te, ciao. Ciao. Vent'anni e più di tirannia fascista, col carcere e col figlio di un bastone, non hanno meno mato il comunista. La convinzione, la convinzione di una nuova era, che al mondo porterà la redenzione, che porta scritto sulla sua bandiera. Rivoluzione, e se la polizia ce lascia perdere, e se la polizia ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate, piombo, piombo, e se ne avremo in un culo di gloria, scacciando voi che si è capitalismo, la nuova storia del comunismo, dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo. lifted stone, and the man of the stars brought back the keys and unlocked the heart. And the birds returned with his songs in their eyes and maps to the world never seen. Maps to the world. Questo è Ulumize, lo abbiamo avuto lo scorso anno, come partecipante al Onda Rossa Festa del 2019, con questo chiudiamo lo spazio di questa notte indifferita. Un trip virus demenziale che è andato avanti per un po' di tempo, forse vi ha lasciato sbigottiti. Comunque l'appuntamento è a mercoledì prossimo, 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana laziale di Onda Rossa, www.ondarossa.info, il sito della radio. Dove potete trovare anche il banner della campagna 30 per 1000, 30 euro 1000 di voi, e Radio Onda Rossa va avanti per un anno. Onda Rossa, @ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla radio. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro che ci hanno ascoltato da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, decreti amministrativi che ci costringono a casa, come quello che stiamo vivendo più o meno tutti in questo momento. A presto, perciò noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Buona libertà, avrebbe detto Salvo. Bella a tutti e a tutte, diciamo noi. Show us your friend. Christmas.